Early Bear Special. Questa è la prima colazione servita dalle frequenze di Rock FM. Musica e chiacchiere con il vostro Chuck Bird. So che tra voi rockettari c'è un cospicuo numero di fans di Johnny Cash, forse anche grazie al bellissimo film uscito un paio d'anni fa intitolato Quando l'amore brucia. Qui viene raccontata la storia d'amore tra Johnny e June Carter in maniera molto emozionante, ma spesso saltando molti episodi interessanti della vita del leggendario Man in Black. Beh, sarebbe stato bello vedere Johnny Cash sotto ipnosi che cercava di ricordare una canzone che il cantante country Webb Pearce gli cantò in sogno. Sì, capitò proprio così. Johnny sognò la canzone, che era bellissima, e al mattino non riusciva proprio a ricordare né la melodia né le parole. Allora il suo amico Johnny Horton, anche lui un noto cantante rockabilly country e grande appassionato di ipnotismo, lo ipnotizzò, non prima di aver messo in mano a Johnny Cash una matita e un foglio di carta. Ebbene, la seduta ebbe successo. Dopo essere stato ipnotizzato, Johnny reincontrò in sogno Webb Pearce, che gli dettò le parole, e Johnny le scrisse quando era ancora sotto ipnosi. La canzone era intitolata I'll Still Be There, venne incisa nel retro di Ring of Fire, ma non ebbe un grande successo. In effetti, sembrava più un pezzo di Webb Pearce che di Johnny Cash. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Well, it's burn, burn, burn, the ring of fire, the ring of fire. Hey, non mi sarete mica andati sotto ipnosi anche voi, come il vecchio Johnny Cash, vero? Eccovi la sveglia giusta, Summertime Blues, Eddie Cochran. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money.

38 Special, l'Early Bird Special, mi è piaciuto il gioco di parole. Early Bird Special che anche per questo lunedì chiude i battenti, ma non preoccupatevi, torneremo domani mattina, sempre dalle 6 alle 7, sempre dalle frequenze di Rock FM. Io vi lascio in buonissime mani, quelle del DJ Ariel, di Freak Anthony e tutta la combriccola del pane, burro e rock and roll. Da Chuck Bird è tutto, aloha!